Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, a tutti buon inizio settimana sotto la pioggia e la neve, persino qua a Milano, per cui insomma, anche se avete sentito il commento del colonnello Giuliacci nel nostro giornale radio, non ci dobbiamo sorprendere se marzo è così ballerino. Beh, insomma, io posso dire da parte mia che mi sono anche proprio bellamente stufata di quest'acqua che ci piove addosso. E allora oggi piove anche sui mercati, perché avete sentito che la situazione è difficile. Devo dire che c'è però un po' di voglia di migliorare il quadro della mattinata. Il mercato digerisce a fatica le notizie che arrivano da Cipro / Bruxelles, e dopo una partenza piuttosto pesante adesso c'è stato un po' un risollevamento della china da parte delle borse europee, però ancora il quadro è abbastanza difficile. Come vi dicevo, c'è un calo di 2 punti a Milano, un calo dell'1,5% a Parigi, in ribasso di 1 punto Francoforte, oltre 2 punti di calo anche a Madrid, Londra in ribasso di 1 punto. Cos'è successo? Avete sentito che è stato piuttosto severo il piano di salvataggio approvato da Bruxelles per Cipro, un'economia piccolissima alla quale però si chiedono sacrifici molto seri, ancora forse peggio di quelli chiesti alla Grecia, naturalmente per rimettersi sulla retta via. Per avere i 10 miliardi di euro di aiuti necessari, Bruxelles ha chiesto un taglio pesante dei depositi bancari e l'incremento appunto sulle tasse sugli introiti societari, ma soprattutto questo prelievo forzoso sui conti, sul quale Cipro deve dare anche il suo voto, il Parlamento di Cipro deve dare il suo voto, appunto è soprattutto una decisione che ha un po' scompaginato le attese europee, perché si crea necessariamente un precedente piuttosto pericoloso. Finché si tratta di Cipro va anche bene, ma non perché noi siamo contenti per i contribuenti ciprioti appunto di quanto sta accadendo loro, ma finché si tratta di una decisione su un'economia microscopica, allora forse la possiamo ancora reggere, ma il mercato oggi è molto chiaro su quello che pensa. Pensate che cosa potrebbe succedere se in difficoltà ancora più pesanti ci fosse un'economia più grande, la Spagna, l'Italia, l'Irlanda, il Portogallo, insomma scenari che noi non vorremmo mai vedere, ma stamattina appunto intanto vediamo questa reazione sui listini europei. La reazione di quanto accaduto a Cipro è stata molto pesante anche da parte delle borse asiatiche, quindi anche dall'altro capo del mondo hanno detto molto chiaramente quello che pensano su quello che ha deciso Bruxelles, e intanto abbiamo appunto questa mattina banche ed assicurazione nel vortice delle vendite. A Piazza Affari vi dico che i titoli più pesanti con cali che si orientano tra i 4 e 5 punti percentuali ci sono il Banco Popolare, Ubibanca, Mediobanca, Monte dei Paschi e Unicredit, cali di 3 punti anche per la Popolare di Milano, per Intesa San Paolo, per la Popolare dell'Emilia Romagna, meno 2,5 punti per Generali, Telecom e Azimut. A salvarsi dalle vendite STM, che per fortuna bilancia un po' la prestazione negativa degli altri titoli, più 5,47% per il gruppo De Chip, che ha sciolto la joint venture con Ericsson, e questa circostanza viene salutata positivamente dal mercato. A2A più 2,33%. La borsa l'abbiamo data subito perché stamattina era una giornata degna di nota. Ed è una giornata che non mancheremo di continuare a monitorare con grande attenzione per tutta la giornata. Noi però oggi a Salva Danaio parliamo di un altro argomento. Allora, dai colloqui di selezione agli accordi sugli orari di lavoro, dalla preparazione dei contratti al pagamento dei contributi, assumere un lavoratore domestico può trasformare improvvisamente una normale famiglia in un datore di lavoro, in una piccola società. E non è detto che tutti abbiano un'esperienza tale in questi ambiti da gestire subito con disinvoltura la situazione, senza dubbi e preoccupazioni. Eppure il tema è sempre più di attualità, viste le esigenze delle nostre famiglie che si trovano ad avere a che fare con un'età anagrafica media che è in continua crescita, per cui grande necessità di avere un supporto familiare per gestire appunto la giornata, tutta la problematicità appunto della giornata. Oggi a Salva Danaio torniamo a parlare della gestione di questi rapporti che sono umani, oltre che lavorativi, però noi naturalmente oggi parleremo parleremo di questo tema dal punto di vista che ci piace di più, che è quello pratico. Cosa succede? Per esempio nei periodi di festa come quello di Pasqua che si sta avvicinando, come ci si comporta per la regolarizzazione dei cittadini stranieri? È cambiato qualcosa con la riforma del lavoro firmata dal ministro Elsa Fornero? 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande su questo argomento. Oggi vi racconteremo tutte le novità con Rossella Cadeo del Sole 24 Ore. Rossella, buongiorno. Buongiorno. Perché non ho detto una cosa molto importante, che oggi su questo argomento esce la guida del lunedì, colf e badanti, lavoro domestico, tutte le novità del 2013. E poi con noi questa mattina Teresa Benvenuto, segretario nazionale di Assin.colf, che è l'associazione nazionale dei datori di lavoro domestico. Dottoressa Benvenuto, buongiorno e bentornata soprattutto. Buongiorno a voi e a tutti. Grazie. Allora, oltre al numero verde, le modalità che avete per interagire con noi sono sempre le stesse, le conoscete bene ma le ricordiamo, rinfrescarci la memoria non fa male: sms al 349 238 6666, mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook siamo al profilo salvadanaio@radio24, su Twitter @salvadanaio24. La borsa l'abbiamo detta, quindi non dobbiamo mandare la, caro Filippo, la sigletta di apertura. Andiamo subito invece al tema di oggi con la nostra scheda. Quali sono le novità del 2013 nell'ambito della regolazione del rapporto di lavoro tra famiglie e lavoratori domestici? Sono circa 900.000, stando agli ultimi dati INPS, le persone impiegate regolarmente nel settore del lavoro domestico, solitamente identificato con le categorie delle colf e delle badanti, figure molto importanti in un paese che diventa, col passare degli anni, anagraficamente sempre più anziano. La categoria continua ad avere come colonna portante la presenza di tanti lavoratori stranieri, oltre l'80% della manodopera. Non a caso, del resto, facevano riferimento a lavoratori domestici quasi tutte le domande di regolarizzazione per i cittadini stranieri presentate lo scorso autunno. Per gestire correttamente questi rapporti lavorativi è fondamentale avere ben chiari diritti e doveri, regolamenti e scadenze, accordi ed esigenze. Tra i punti principali da tenere a mente, ad esempio, c'è il pagamento dei contributi previdenziali all'INPS, che si calcolano e si versano trimestralmente, dal 1 al 10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Non manca molto, quindi, al secondo appuntamento del 2013. Assumere un lavoratore domestico può trasformare, improvvisamente, una normale famiglia in un datore di lavoro. E non è detto che tutti abbiano un'esperienza tale in questi ambiti da gestire subito con disinvoltura la situazione senza dubbi e preoccupazioni. In un periodo di crisi, poi, la spesa per il mantenimento di un lavoratore non è certo indifferente. Una colf a 15 ore alla settimana costa circa 540 euro al mese e una badante convivente può arrivare a 1500. Senza dimenticare che, con la recente riforma del lavoro che premia le assunzioni a tempo indeterminato rispetto ai rapporti flessibili, i contratti a termine diventano più cari, con un aumento dell'1,4% sui contributi per finanziare l'ASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego. 800 24 00 24, avete sentito tutta la rosa di novità che interessano le famiglie che impiegano lavoratori domestici. Io vorrei subito rispondere a chi, perché già questo tenore di messaggi l'avevo già notato in alcune osservazioni di alcuni ascoltatori che ci hanno cominciato a proporre da venerdì scorso su Facebook, quando abbiamo dato l'anticipazione del tema che avremo affrontato oggi. Molti dicono: ma insomma, chi si può permettere la colf adesso, parlate di altri temi. Allora qua dobbiamo anche scrollare di dosso il mito e il pregiudizio che il lavoratore domestico se lo possono permettere solamente le famiglie che hanno un certo tenore di vita. È sicuramente vero, ma non ci dimentichiamo del fatto che ci sono molte famiglie all'interno delle quali ci sono molte donne che non vogliono perdere il proprio posto di lavoro e hanno bisogno di una babysitter. Quindi non immaginate sempre che il collaboratore familiare sia la persona, il cameriere tipico con la mostrina, con il grembiule che serve tutti gli ospiti che arrivano a casa. Ci sono delle situazioni molto più concrete, problemi di natura diversa, anziani che si devono lasciare a casa perché magari non si ha la possibilità di metterli in un istituto, in un centro per anziani. Ci sono tante situazioni, quindi io non capisco per quale motivo debbano sempre arrivare questi commenti che veramente sono, io questi ritengo che siano completamente fuori luogo. Rossella Cadeo, che ne pensi? Ho fatto la mia, il mio editoriale questa mattina, però io veramente quando vedo queste cose mi irrito un po', perché insomma, gli anziani in casa qualcuno deve prendersi cura. Se abbiamo la possibilità 2 ore al giorno di farci aiutare. E dobbiamo prendercene cura in maniera regolare, è questo che vogliamo spiegare nelle nostre pagine, vogliamo indicare quali sono le regole da seguire per un corretto rapporto con la collaboratrice familiare, tanto più che, visto che i numeri parlano di 900.000 o 1 milione di persone impiegate nel lavoro domestico, vuol dire che l'argomento ancora interessa molte persone, non solo le persone più abbienti, ma anche quelle che appunto hanno o un anziano in casa o hanno necessità di dover governare la casa in un certo modo mentre sono assenti. E infatti, tra l'altro, a proposito della cifra che ci ha indicato, ho letto con attenzione anche di come le percentuali si stiano modificando nella relazione tra lavoratori stranieri impiegati e lavoratori italiani, perché questi stanno crescendo. Sì, questo è anche un indice della crisi che è in atto, perché vediamo che i lavoratori stranieri sono diminuiti tra il 2010 e il 2011, anno in cui ancora non eravamo entrati in una crisi così nera, e sono diminuite del 5,2%, ci dice la Fondazione Leone Moresse. Invece gli italiani, i lavoratori italiani che accettano appunto un lavoro di questo tipo, cercano un lavoro di questo tipo, sono cresciuti del 3%, quindi si comincia a non snobbare più una possibile fonte di reddito che una volta era appannaggio appunto del lavoratore straniero in cerca di mezzi di sostentamento regolari. Tra l'altro vogliamo ricordare, allora, la guida di stamattina del Sole 24 Ore non ha la modalità più ricorrente delle guide che escono il lunedì, nel senso che in questo caso non abbiamo il pool di esperti che rispondono alle domande dei lettori, però c'è naturalmente la possibilità di andare su internet per trovare queste informazioni. In più sarà in pubblicazione anche un manuale con tutte le indicazioni. Sì, Rossella, giusto? Abbiamo questa guida più che è una guida di acquistabile online sul sito del Sole 24 Ore, è una guida esaustiva con tutti gli aspetti del lavoro domestico affrontati, dall'assunzione alla risoluzione del rapporto alle ferie. Ci sono anche dei casi pratici, degli degli esempi all'interno dei quali il lettore si può ritrovare le cose che più interessano, perché sono tantissimi gli aspetti che coinvolgono questo tipo di rapporto, a cominciare dalla stessa Pasqua, come pagare le festività, come regolarsi. Allora andiamo subito a chiederlo alla dottoressa Teresa Benvenuto, segretario nazionale di Assin.Colf, che conosce bene tutto il mondo dei datori di lavoro in questo settore. E allora, appunto, stanno arrivando le feste, perché ne parliamo proprio quest'anno? Perché sono cambiate un po' di cose, dottoressa Benvenuto? Per questi lavoratori, come per tutti gli altri, anche è giusto che in certi periodi dell'anno ci sia assenti, perché ci sono le festività, tutti quanti vogliono trascorrerle con la propria famiglia, ma per una, per esempio, badante di una persona anziana, chiaramente magari allontanarsi nei periodi di festa per la famiglia rappresenta ugualmente un problema. Ci sono delle novità, oppure così abbiamo colto un po' l'occasione dell'avvicinarsi di questa festività per tornare a parlare della disciplina del rapporto di lavoro in questi frangenti festivi? Per quanto riguarda l'argomento di festività o ferie, non ci sono novità, poiché appunto la situazione è stabile ed è quanto disciplinato all'interno del contratto collettivo. Lo ricordiamo in questo frangente proprio perché siamo vicino a Pasqua e perché comunque uno dei problemi di forte, diciamo, può generare forte tensione nel rapporto domestico con la lavoratrice. Certo, pensando, è bene intanto, possiamo subito dare un suggerimento di buonsenso, dottoressa Benvenuto, quando ci cominciamo ad impegnare nella ricerca di una persona che poi ci aiuterà nelle pensioni domestiche, è bene forse questo aspetto chiarirlo sin dall'inizio, come verranno disciplinate le festività. Sì, questo è uno dei nostri cavalli di battaglia, nel senso, nel momento in cui il datore di lavoro si appresta a fare un'assunzione e a stilare un contratto di lavoro con la lavoratrice, chiediamo sempre di fare molta attenzione all'argomento ferie, perché è uno di quegli argomenti che si ripresenta ogni anno e che quindi ben inquadrato in fase di instaurazione del rapporto può risolvere e permettere un percorso insieme alla lavoratrice senza discussioni. Ricordiamo che le lavoratrici e domestiche hanno diritto a 26 giorni di ferie. 26 giorni di ferie che possono essere liberamente scelte nel corso dell'anno, anche lì è bene patti chiari, amicizia lunga, stabilirlo dall'inizio. Nel contratto è previsto che possono essere godute in non più di 2 volte l'anno, poi si lascia appunto alla libertà dell'accordo tra datore e lavoratore, ma nella contrattazione è bene capire quali sono le esigenze del datore di lavoro, per esempio se assume questa persona per fare assistenza ad un anziano e quindi ha quindi bisogno di una presenza sempre costante in casa, certo. Anche nei periodi di ferie, anche quando nei periodi diciamo di assenza della famiglia, e quindi è bene precisarlo all'interno del contratto, perché altrimenti diciamo tutte queste cose, se non stabilite inizialmente, generano un aumento di costo per la famiglia. Uh-huh. Oppure quando si vuole comunque portare l'anziano in vacanza, è bene siglare che la persona debba seguire il datore di lavoro. Certo, e non dirlo all'ultimo momento, perché poi giustamente anche la persona dice, ma insomma, io va bene che ti devo garantire la mia presenza per quasi tutto l'anno, però magari anche questa, cioè chiaramente devono esserci aspetti di chiarezza nella relazione sia da parte del lavoratore che anche del datore di lavoro, quindi non manifestare certe esigenze a sorpresa nel corso dell'anno, perché anche quello chiaramente non è corretto. Sentiamo subito una domanda di Alessandra da Pesaro, poi nella seconda parte della trasmissione snoccioleremo tutti gli altri aspetti di novità previsti per quest'anno, perché ci sono le novità per quello che riguarda la contribuzione per questi lavoratori che ricadono anche sotto l'attività dell'ASPI, la nuova assicurazione sociale appunto prevista dalla riforma Fornero. Intanto però subito un caso concreto, quello di Alessandra, a cui poi risponderemo dopo la nostra prima pausa. Alessandra, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie per la vostra trasmissione che è veramente utile per tutti noi. Grazie. Dunque, la mia domanda è molto semplice. Io sono un utente e mi avvalgo di una collaboratrice domestica, però per solo 4 ore a settimana, quindi con un orario veramente minimale. Volevo sapere quali erano le modalità operative per metterla in regola, perché ho visto che insomma le prospettive sono diverse, per un numero di ore così piccolo spesso sono controverse anche le soluzioni che mi si propongono. Grazie Alessandra. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi abbiamo rubacchiato dalla guida del Sole 24 Ore che esce oggi, con il lunedì del Sole per l'appunto, Colf e Badanti, il lavoro domestico, tutte le novità del 2013. Ce ne sono tante, ce ne sono di molto interessanti, anche nello spaccato sociale, per la verità, che analizziamo quando tocchiamo questo argomento, perché mentre eravamo abituati ad una società che impiegava molti lavoratori stranieri, e la crisi sta portando un po' a capovolgere le percentuali, non le abbiamo sicuramente capovolte, ma a modificarle sicuramente a vantaggio anche della professionalità italiana, che adesso si presta sempre di più anche ad essere impiegata appunto in questi ambiti. 800 24 00 24 per parlare del tema della regolarizzazione dei collaboratori familiari, delle badanti e tutte le novità appunto che sono state previste di recente anche dalla riforma Fornero. Allora, Alessandra da Pesaro, faccio la prima domanda alla dottoressa Teresa, benvenuta. Segretario nazionale di Assindatcolf, l'associazione nazionale dei datori di lavoro domestici, ci ha raccontato il suo caso: ha bisogno di una collaboratrice familiare per non più di 4 ore a settimana, e probabilmente sono molte le famiglie in queste condizioni che hanno bisogno magari per poche ore per un aiuto appunto marginale. Dottoressa, benvenuto. Però è corretto che anche per queste poche ore la figura professionale che ci aiuta sia regolarizzata. Come si fa per un numero di ore così basso? Naturalmente, come per tutti gli altri rapporti di lavoro, cioè per più ore di lavoro a settimana, deve essere fatta un'assunzione accedendo allo sportello, al portale dell'INPS e facendo un'assunzione indicando appunto il numero delle ore e la retribuzione che si è convenuta con la lavoratrice. Credo che la signora voglia fare riferimento alla tipologia di contratto da porre in essere, facendo diciamo riflettere sul fatto dell'occasionalità, dicendo mi servono solo 4 ore a settimana, posso considerare questo rapporto esiguo e di conseguenza occasionale, e scegliere una formula sostitutiva tipo i voucher, tipo un'assunzione con i voucher. a nostro avviso, come associazione datoriale, quindi di difesa del datore di lavoro, riteniamo che la formula non sia idonea, adatta a questo tipo di lavoro. Perché? Non è occasionale, ma è ripetitivo, è 4 ore ogni settimana, quindi è semplicemente un'individuazione delle proprie necessità lavorative circoscritte a 4 ore durante la settimana, ma quella è un'esigenza che si ripeterà per il momento, in base alle esigenze della signora, per tutte le settimane. Quindi rientra in un contratto a tutti gli effetti denunciato secondo le forme canoniche previste da In quali casi, allora, visto che ci ha fatto questa sottolineatura, dottoressa Benvenuto, è auspicabile, è più utile, corretto utilizzare la forma del voucher? Quale tipo di cadenza deve avere questo rapporto di lavoro? Avvalersi di un collaboratore familiare una volta ogni 3 mesi, casualmente? Il voucher al settore domestico, a nostro avviso, si applica veramente in pochissimi casi, proprio perché la tipologia del rapporto di lavoro domestico può essere appunto in base alle esigenze del datore di lavoro, e quindi può essere anche una sola ora a settimana, però se viene ripetuto più volte, cioè viene ripetuto con una certa cadenza ogni due settimane, non è occasionale. Possiamo usare i voucher quando la famiglia vuole andare a teatro e vuole lasciare la figlia con una babysitter che sta nel palazzo, la ragazzina che vuole arrotondare la sua paghetta. Ecco, esatto, non speriamo di poterla pagare, sarebbe più utile pagarla regolarmente, non magari regalandole 20 euro così. Ecco, magari utilizzando dei voucher, oppure se devo appunto fare le pulizie di Pasqua e non ho una colf, ma devo fare le pulizie di Pasqua, quindi sono in quell'evento, utilizzo questa nuova formula. A proposito del voucher, dottoressa Benvenuto, leggo sul Sole 24 Ore, nei vari pezzi scritti appunto da Rossella Cadeo, Valentina Melis e tutto lo staff dei colleghi che hanno appunto collaborato alla stesura della guida di oggi, è che chi avesse ancora voucher comprati prima del 18 luglio dello scorso anno deve affrettarsi ad utilizzarli. Scadono? Come il latte? Sì, è prevista che appunto vengano utilizzati fino al 31 maggio 2013, perché poi appunto la riforma Fornero ha previsto altre forme di ticket. E vedremo allora quali saranno. Sono già chiare queste nuove forme di ticket? O... La riforma Fornero ha voluto precisare che il voucher ha un valore orario, poiché in passato veniva utilizzato uno stesso voucher per pagare 2 ore, 3 ore, nel senso venivano utilizzati in maniera impropria. Ho capito, quindi la precisazione è che un voucher copre almeno un'ora. Quindi perché adesso questi che scadono invece il 31 maggio che tipo di valorizzazione hanno individuato? No, hanno il valore di 10 euro, nel senso sono stampigliati 10 euro, ma non avevano questa precisazione. Ho capito. Allora adesso andiamo, tra l'altro c'è un tema, andiamo a sentire anche altri ascoltatori, però volevo fare una piccola finestra con Rossella Cadeo, perché voglio solamente annunciarlo ai nostri ascoltatori, ma poi vorrei dedicare ad una puntata specifica a questo argomento che mi interessa molto, è molto interessante, forse interessa anche molti ascoltatori, perché sta nascendo la figura dell'assistente di condominio, della colf di condominio, la badante di condominio, qualcosa del genere. Da dove ci arriva questa figura, Rossella? Perché magari prossimamente varrà la pena far sapere qualcosa di più ai nostri ascoltatori. Sì, si tratta di, anche questa è una forma, una soluzione, una forma di risposta alla crisi che è in atto, quindi si cercano soluzioni convenienti, risparmiosi, soluzioni low cost, dove appunto la famiglia possa calibrare le proprie disponibilità alle proprie esigenze. È una figura che nasce da questa assistente di condominio, dal contratto nazionale firmato da Confedilizia con i sindacati, ed è una figura che potrà occuparsi delle necessità delle famiglie appunto residenti in un condominio, che possono essere le pulizie piuttosto in casa, piuttosto che l'assistenza ai bambini, piuttosto che altri lavori tipici, certo, del sì. lavoro domestico, sono escluse comunque, è esclusa l'assistenza ai non autosufficienti, quindi si tratta di una figura proprio di supporto funzionale per esigenze non non elevatissime di assistenza in casa e che possono essere appunto ripartite tra più condomini. Certo. Tant'è vero che ciascuna famiglia pagherà per la prestazione che riceve da, bene, dal lavoratore. Ce ne occuperemo dettagliatamente prossimamente. Intanto a Bologna una sperimentazione sulla badante di condominio la sta facendo l'associazione Confabitare, che abbiamo ospitato anche a volte a Salvadanaio, e quindi andremo a sentire loro appunto come sta andando anche questa sperimentazione. Rapidamente, altri ascoltatori. Allora, un commento di Paolo da Terni, a cui chiedo di essere molto breve. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Sì, ci dica. Senta, io voglio intervenire a questa proposta, no? Il fatto delle badanti, io semplice avevo a caso mio cognato che avevamo bisogno di una badante, l'abbiamo segnalato. Paolo, guardi, non la sentiamo per niente. Potrebbe aggiustare un po' meglio o il telefono oppure lo recuperiamo noi adesso, vediamo, perché qua la qualità del collegamento era pessima. Andiamo a Leonard da Genova. Leonard, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io chiamo in quanto riguarda i call, perché mia sorella ha lavorato da una signora a Genova per 6 anni e mezzo. Sì. Dove lavorava senza ferie e senza nulla. Lavorava di mattina, di pomeriggio, a volte anche di sera. Questa signora è venuta a mancare, buonanima, e adesso i figli rifiutano di pagare il TFR. Aveva un contratto regolare, Leonardo, sua sorella? Un contratto regolare, però loro pretendono che, a parte che una parte ha lavorato in nero. No, ma è una pratica che si usa, cioè... Lo so, però non si dovrebbe, quindi Leonard, immagino che pretendere il TFR sulla parte in nero è purtroppo... Sulla parte in nero si fa la denuncia, casomai. Ecco, poi, questo è un altro discorso. Poi, solo per sapere come si deve comportare in questi casi. Leonard, la ringrazio. Sentiamo Teresa Benvenuto, che ne pensa? Gli eredi devono subentrare agli obblighi del decuius e di conseguenza quindi assorbire questo debito che ha nei confronti di questa lavoratrice. E il problema è appunto se non fanno una rinuncia all'eredità e quindi anche quest'obbligo viene meno. Esatto, questo è quello che dovrebbero fare. Da quello che capisco non hanno nessuna intenzione di farla, quindi qual è in questo caso? Io mi rendo conto che lei la vede più dal punto di vista del datore di lavoro, però questa è una persona anche in oggettiva difficoltà che, essendosi interrotto il rapporto di lavoro, si aspettava la normale liquidazione, no? Il trattamento di fine rapporto. Adesso, permettendo il fatto che quella parte in nero vada così un po' persa. Gli eredi non fanno rinuncia all'eredità, sono tenuti ad assolvere quest'obbligo. Di conseguenza il lavoratore, la lavoratrice ne farà richiesta in maniera formale e quindi anche rivolgendosi a un sindacato che la rappresenta. Benissimo, quindi Leonard magari ci scriva, se riusciamo la indirizziamo su Genova ad una figura appunto sindacale, assistenziale, che le possa dare suggerimenti su come muoversi. Però anche qua, mamma mia, quante scorrettezze qualche volta. Questa qua sarà stata, poveretta, utilizzata in ogni modo, perché ce l'ha raccontato, e poi adesso tanti saluti. Vabbè, qua tante volte, anche qua un altro tema è che pensiamo che queste persone, come dire, poi non si difendano, no? Non abbiano anche i mezzi, le capacità per potersi tutelare, e invece Leonard chiama la radio e adesso lo aiutiamo a tutelarsi al meglio. Eccoci di nuovo in diretta per l'ultima parte di Salvadanaio. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per intervenire sul tema di questa mattina: come si disciplina correttamente, alla luce delle novità continue che arrivano, in rapporto di lavoro con il collaboratore familiare. Allora, Rossella Cadeo, il Sole 24 Ore: si avvicina alla scadenza per il pagamento dei contributi relativi al primo trimestre 2013 e quest'anno sono un po' più salati. Sì, sono più salati, soprattutto, dunque, riassumiamo, si pagano dal 1 aprile al 10 aprile, sono relativi al primo trimestre, sono aumentati per il 2013, ma sono aumentati soprattutto per chi assume con un contratto a termine. L'aumento varia da 3 a 7 centesimi di euro all'ora, e questo perché il contributo, questo questo aggravio serve a finanziare l'ASPI. L'ASPI che è andata a sostituire l'indennità di disoccupazione involontaria e quindi va a pesare soprattutto su quei contratti che sono a termine, perché si intende incentivare il ricorso a contratti a tempo indeterminato. Quindi sono un po' più cari quelli che i contratti che prevedono un termine, come una scadenza. Come succede per tutti gli altri rapporti di lavoro in tutti gli altri settori, appunto il contratto a tempo determinato è diventato un po' più oneroso effettivamente. Un po' più oneroso e deve essere comunque motivato da una giusta causa, non può essere... Allora, per chiarire le cose, peraltro, è arrivata proprio l'8 febbraio una circolare dell'INPS, la numero 25, per chi volesse sapere qualcosa in più, che ha fornito due tabelle, e tutto questo è riportato molto esaustivamente da Alessandro Rotaporta sul Sole 24 Ore, due tabelle, una da usare per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e l'altra per i rapporti appunto a termine. 800 24 00 24, il numero verde ancora per le vostre domande. Era pronto Giulio da Roma. Giulio, buongiorno. Ah, buongiorno a lei, Debora, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Io non ho comprato ancora il Sole 24 Ore, quindi non so se nell'inserto di cui parlavi in apertura di trasmissione trovo la risposta al mio quesito che le vado a formulare. Ho un golf che lavora 15 ore a settimana. Sì. Ogni tre mesi io pago sempre lo stesso numero di ore, sia che l'abbia fatte queste ore sia che non le abbia fatte. Cioè lo stipendio che io do alla COF è sempre lo stesso per i 12 mesi. Però poi voi nella vostra gestione siete un po' più elastici, diciamo. Io ho sburocratizzato tutte queste norme che mi annoiano, e allora alla fine dell'anno faccio la somma di tutte le ore che ha fatto nei 12 mesi e praticamente faccio il conguaglio: se ha lavorato di più le do di più, se ha lavorato di meno, e così contemporaneamente le calcolo i 26 giorni di cui parlava lei di ferie, e le do anche il trattamento di fine rapporto, oltre a anche la tredicesima naturalmente. Domanda all'ospite esperto che sta in studio: è un procedimento regolare? Infatti è la domanda che avrei rivolto anch'io alla dottoressa Teresa, benvenuto. È regolare questa procedura? Non gli conviene fare più un conguaglio trimestrale, oppure insomma è valida anche la procedura di farlo una volta all'anno? Dottoressa, benvenuto. Intanto è consentita, intanto. È una procedura semplicistica che però gli permette di avere un buon rapporto con la lavoratrice. Mi sembra che la signora non si lamenti e che una volta l'anno un conguaglio gli può andare bene. Certo. Dice una volta l'anno, quindi ogni 12 mesi, è importante che non liquidi le ferie, ma le faccia godere queste ferie, quindi un mese all'anno lasci libera la lavoratrice per riprendersi. La necessità che non ci sia un fisso mensile nel rapporto domestico e che vengano pagate le ore realmente svolte, che ogni mese sono differenti perché i mesi dell'anno sono di 31, di 28, di 30, e quindi è per questo che si ricorre ad un pagamento orario. Ma se lui ha trovato questa soluzione e appunto c'è un accordo tra le parti, mi sembra che non ci sia nulla. Assolutamente nessun tipo di contestazione da nessuna parte. Allora, ci sono tantissime domande, adesso vorrei vedere quest'ultima che è arrivata, che è un po' lunga. La nostra badante ci sta ricattando: dopo averla accolta e regolarizzata, recrimina la liquidazione del periodo che lavorava come clandestina. Qual è l'associazione che tutela il datore di lavoro? Abbiamo fatto regolare richiesta, ma i flussi erano bloccati e la prima richiesta abbiamo pagato e i soldi sono andati su per il camino, pretendo diritti che non gli appartengono. Vabbè, non capisco tutto questo, poi chiaramente ogni situazione andrebbe anche un po' raccontata ascoltando tutte le parti in causa, perché ognuna ha naturalmente anche le sue ragioni. Detto questo, c'è ancora in corso una procedura di regolarizzazione per lavoratori stranieri. Dottoressa, benvenuto. Sì, la procedura del 2012 è stata fatta nel 2012 e le pratiche sono in fase di valutazione, sono molto più celeri che in passato, ma comunque sono in fase di risposta. Man mano che i datori di lavoro vengono convocati insieme al lavoratore, presentano tutta la documentazione richiesta e firmano il contratto di soggiorno che pone fine a diciamo, archivia tutta la parte relativa ai reati sull'immigrazione e amministrativi, mm-hmm. e quindi sollevano il datore di lavoro da questa situazione incresciosa. Cristina da Genova ci scrive: il problema è che i lavoratori domestici vogliono una parte di nero per non pagare le tasse, poi però il TFR lo vogliono giusto, è anche vero. Però Cristina, qua allora, siccome per chi viene in Italia noi facciamo tante iniziative di lotta per l'evasione fiscale, si adeguano anche loro, per quella parte in nero si dice no grazie, non abbiamo bisogno. Ci sono tante persone che hanno bisogno di lavorare, vogliono farlo nella maniera più corretta possibile per stare nel nostro paese in maniera trasparente, per cui bisogna anche che un po' si impari anche a vivere nel paese in cui si vuole stare. Aaron da Cremona, rapidissimo, buongiorno, grazie. Aaron? Pronto, buongiorno. Ci dica. Sì, mi sente? Sì. Pronto, sì. Allora, io volevo chiedere, ma il contratto di lavoro per malanti ha un minimo tabellare, cioè c'è una regolamentazione per la paga o è solamente un contratto tra le parti per la paga oraria? Grazie, ecco. C'è un minimo da rispettare? Grazie, Aaron. Sì, stamattina credo che ci sia anche questa parte di nuovo sul Sole 24 Ore, ma è stato oggetto questo anche di tante altre puntate. È certo che c'è un livello minimo, dottoressa, benvenuto. Poi se il datore di lavoro vuole essere particolarmente generoso, è sua libertà naturalmente poter fare questo gesto, però si parte da un livello minimo di retribuzione. Certo, ci sono le tabelle retributive che si applicano a questa figura, sia con una retribuzione mensile, qualora appunto si abbia un rapporto di convivenza, sia con un valore orario minimo, che poi va moltiplicato per il numero delle ore di prestazione lavorativa della badante. Benissimo. Stava parlando della badante. Sì. Dottoressa, benvenuto. C'è qualche ultima raccomandazione? Stiamo chiudendo la trasmissione, che ci vuole dare? Aspetto magari rilevante in questa fase a cui non abbiamo dato adeguata attenzione? No, attenersi scrupolosamente alle regole, perché questo permette di non avere richieste di vertenza posteriori o durante il rapporto di lavoro. Un'ultima cosa, l'indennizzo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Prima il lavoratore credo dovesse pagare qualcosina, adesso non c'è più questo contributo, mi sbaglio? Sta parlando dell'ASPI e della scampato pericolo? Sì, può darsi, la dobbiamo lasciare stare questa questione, comunque non c'è questo 1.400 euro, quanti erano questi soldi? No, per fortuna... Ho sollevato un problema che non esiste. Devo chiudere purtroppo. Grazie a Teresa, benvenuta. Rossella Cadeo, torniamo domani. Buona giornata.